Abbiamo faticato sotto al sole che scioglieva la tensione tra migliaia di persone. Abbiamo condiviso il nostro mondo, conosciuto altre culture ed osservato ogni colore. Abbiamo costruito una valida proposta alternativa che prima o poi qualcuno applicherà. Abbiamo innalzato una bandiera arcobaleno che nessuno in questo mondo strapperà. Una splendida ragazza messicana punta il dito verso il sole che accarezza il mondo intero. Così mi prende per la mano e inizia a correre veloce verso il monte che si erge verso il cielo. Ricordo che i suoi occhi si girarono verso me e mi chiesero tacendo di parlare. Le nostre storie si conobbero, impararono ad amarsi e incominciarono perdendosi a ballare. Perdendosi a ballare. Perdendosi a ballare. Un ragazzo e una ragazza che vivevano distanti cominciarono col prendersi per mano. Sorridevano lontani dalla folla, lontani dalla musica su cui noi saltavamo. Lei prese la chitarra ed incominciò a cantare una canzone che certo io non dimenticherò. Imagine, imagine there's no countries, imagine all the people living life in peace. E mentre il sogno continuava i nostri mondi si incrociavano e iniziarono a bussare le paure. Chissà se ci incontreremo un'altra volta a lavorare sotto il sole, questo chi lo può sapere? Cercavamo di scacciare la malinconia gridando una canzone o correndo verso il mare urlando dai. Cercavamo di non perdere un secondo, di non perdere l'occasione di distruggere le frontiere. Di distruggere le frontiere. Di distruggere le frontiere. Per me è difficile cantare ciò che è stato, è difficile voltarmi ed osservare luce lontana. È difficile osservare le vecchie foto immaginando che qualcuno forse mi ricorderà. E poi è difficile affogare la malinconia in un letto un po' sudato pur urlando forte rabbia verso Dio. È bellissimo pensare che in un giorno non lontano forse tutto questo mi riprenderà.